Salva Danaio di Deborah Rosciani. Deborah Rosciani, buona giornata a tutti e benvenuti a Salva Danaio. Prima di tutto una risata. Ieri, terminando la trasmissione, vi ho salutato dicendovi ci risentiamo lunedì. Avevo completamente cancellato questa giornata, ma naturalmente il nostro tecnico Filippo Aureggi mi ha subito prontamente rimbrottato. Insomma, cosa stai dicendo? Domani non ci sei, ci sono come, però insomma non lo so, non volevo forse fare questo venerdì. Eppure il tema che abbiamo scelto è interessante ed attira molti dei nostri ascoltatori, soprattutto coloro che investono in borsa e che investono a Piazza Affari. Oggi parliamo di dividendi. Andiamo per ordine. La crisi del Nord Africa, la tragedia giapponese, l'acuirsi della crisi degli stati sovrani europei. Nelle ultime settimane di nuovo parecchie vicende hanno turbato i mercati finanziari. Le borse tra gennaio e febbraio erano riuscite a riportarsi sui massimi dal 2008, poi hanno ritrovato una certa volatilità, hanno ricorretto la traiettoria spaventati dalla fiammata del petrolio e delle materie prime, dal ritorno dell'inflazione e dalla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse, uno dei quali già effettuato giovedì scorso dalla Banca Centrale Europea. È probabile però che qualche risparmiatore sia riuscito un po' a trovare una consolazione dalle ansie recenti di mercato. Chi investe in borsa puntando alle cedole sicuramente è un po' più tranquillo di altri, anche se non tutti sono convinti di questa teoria e di questa consolazione. Intanto cosa succede a Piazza Affari? Che sono in arrivo 15 miliardi di euro che andranno a remunerare i soci delle blue chips di Piazza Affari, 2 miliardi in più circa rispetto al 2010. Negli ultimi due anni le società in forte crisi di liquidità avevano preferito mantenere in cassa o investire i propri utili, in molti casi drasticamente ridimensionati, mettendo così a stecchetto gli azionisti, reduci da periodi in cui invece le cedole erano state decisamente allettanti. Pensate che nel 2008 sono stati quasi 30 i miliardi in dividendi in distribuzione. Quest'anno si viaggerà con un monte dividendi di circa la metà, ma il dato viene comunque interpretato come un'importante ed interessante inversione di tendenza. Oggi faremo un punto della situazione per capire intanto quali saranno le società più generose, quali invece ancora fanno fatica a ritornare alla distribuzione del dividendo. Vi spiegheremo che cos'è un dividendo, chi ne stabilisce l'ammontare e in cosa consiste anche la distribuzione di un dividendo sulle azioni ordinarie di un gruppo quotato, sulle azioni di risparmio. Insomma, faremo anche un po' di ABC di finanza con i nostri ospiti di questa mattina. Saluto e ringrazio per essere con noi Salvatore Graziano, direttore di Money Report, sito di informazione finanziaria. Salvatore, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti voi. Grazie anche a Francesco Caricati, analista dell'area risparmio gestito di Consultico, con una società di analisi indipendente. Caricati, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Bentornato, anzi, a Salva. Io mi ricordo che Caricati l'ultima volta che è stato con noi ci ha aiutato a capire bene come funzionava l'IPO di Enel Green Power e oggi l'abbiamo ricontattato appunto proprio per così fare sia l'analista ma anche un po' il docente di finanza per capire un po' anche la terminologia che utilizzeremo questa mattina per spiegare il tema del dividendo. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Ci potete anche scrivere come sempre al 349 238 6666 o al nostro indirizzo di posta elettronica che corrisponde a quello appunto della nostra trasmissione, salvadanaio@radio24.it. La borsa stamattina, anche se il tema di borsa lo affronteremo per tutta la trasmissione, è davvero una borsa strana perché gli indici sono partiti contrastati ma poco mossi dalla parità e poi adesso vedo invece che le spinte sono differenti in maniera più marcata perché abbiamo Parigi e Milano che sono leggermente negative, meno 0,03% e meno 0,02% per il FTSE MIB di Milano. Francoforte guadagna quasi mezzo punto, quindi se ne va davvero per conto suo. Londra appena positiva, più 0,17%. Stamattina ad animare la seduta, quali notizie sono arrivate? Allora, intanto altre due tacche in meno nel giudizio sul debito sovrano dell'Irlanda. La nuova bocciatura è arrivata stamattina da Moody's, ma ormai per Irlanda, Portogallo e Grecia i giudizi si susseguono. Al di sotto di questi livelli arriverà il giorno in cui non ci si potrà più andare, come è noto, perché poi anche la scala delle valutazioni delle agenzie di rating ad un certo punto termina, si arriva alla spazzatura e chiaramente a quel punto i titoli di Stato appunto di questi paesi non avranno più mercato, come sta accadendo proprio peraltro in queste ore ai titoli della Grecia. Ieri c'è stato il nuovo massimo storico per i titoli a 10 anni, ma anche perché a 2 anni del appunto governo ellenico i tassi a 10 anni sono saliti oltre il 13%, quelli a 2 anni sono balzati al 17,5%, ma appunto, come spiegavano bene stamattina le agenzie e i giornali, si tratta di percentuali teoriche, perché attualmente il mercato del debito della Grecia è totalmente illiquido e il paese sta facendo fronte ai propri bisogni, non certo grazie al mercato, ma grazie al pacchetto di aiuti ottenuti dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale. L'euro sul dollaro a 1,44,46, il petrolio stamattina era di nuovo in salita sui mercati asiatici, WTI a $108,49 al barile, il Brent a Londra $122,42, nuovo record dell'oro stamattina $1,480 l'oncia. E andiamo a vedere a Piazza Affari i titoli in movimento peggiore, scendono di nuovo tutte le banche, tutte le assicurazioni, fondiarie a -2,75%, abbiamo un calo per la Popolare di Milano del 2,21%, perché il gruppo deve chiarirsi le idee sull'aumento di capitale che dovrà fare, perché c'è stato un esplicito invito da parte del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, in questo senso. D'altronde, rafforzamento di capitale lo faranno anche tutte le altre big bancarie appunto di Piazza Affari. Tra gli altri ribassi in pregilo, -1,32 Intesa, -1,18 Mediaset, -1,15 Monte dei Paschi, in ribasso di 1 punto percentuale. Prismian guadagna il 4% all'indomani dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2010, poi c'è anche un giudizio positivo degli analisti che spingono il titolo. Fiat Industrial corre a Piazza Affari +3,19% in attesa dei conti che saranno resi noti la prossima settimana grazie anche al sostegno di alcuni giudizi positivi degli analisti di Citigroup. E poi abbiamo Azimut in rialzo dell'1,64%, Pirelli +1,24%, Enel +0,8%. Si fa strada intanto in maniera sempre più concreta la cordata italiana per la conquista e il controllo di Parmalat, il titolo di Collecchio però oggi scende dello 0,35%. Lasciamo la borsa, in realtà non la lasciamo del tutto stamattina, perché parliamo ancora di società quotate a Piazza Affari e dei dividendi che distribuiscono. Francesco Caricati, comincio subito con lei, un monte dividendi decisamente interessante quest'anno, come mai complessivamente le società quotate hanno deciso di essere più generose? Ce ne sono anche delle motivazioni concrete o solamente per attirare un po' di più gli azionisti verso la borsa, visto che peraltro, tra l'altro, anche le altre asset di investimento, le altre eventuali alternative di investimento non sono particolarmente attraenti in questo momento? Sicuramente c'è stato un ritorno agli utili, molte aziende quotate sono ritornate a fare utili sicuramente migliori rispetto a quelle di 1 o 2 anni fa, quando la crisi aveva ridotto comunque i margini di operatività delle aziende e quindi anche la possibilità poi di distribuire utili agli azionisti. Da una parte poi ci sono quelle aziende che stanno cercando e hanno cercato nel tempo di mantenere un flusso dividendi abbastanza omogeneo, mi riferisco soprattutto alle utility e alle partecipate statali, che tendono a mantenere un flusso dividendi abbastanza cospicuo e costante nel tempo, anche se anche loro hanno subito un grosso ridimensionamento, soprattutto nel 2008, poi si sono ripresi un po' nel 2009 e quest'anno. Poi c'è un discorso a parte, quello delle banche, che inizialmente, fino a qualche mese fa, era probabile che non distribuissero dividendi così elevati, ma invece le nuove prospettive che si sono delineate con gli interventi sul capitale che sono stati fatti e che saranno fatti in questi mesi hanno portato ad un aumento del monte dividendi anche per le banche, quindi questo è sostanzialmente lo scenario che ci troviamo di fronte in questo momento da questo punto di vista. E infatti adesso andremo anche un po' proprio ad esaminare, a spezzettare Piazza Affari, andando a fare un esame per singoli settori, come già ci ha fatto parzialmente Francesco Caricati, facendo questo paragone per esempio tra le banche e le utilities. Chiedo però un giudizio prima di andare in pausa anche a Salvatore Graziano rispetto a questo ritorno alla crescita del monte dividendi distribuito da Piazza Affari. Le chiedo, e non la faccio casualmente questa domanda perché so che è un tema sul quale Salvatore Graziano ha una teoria anche piuttosto critica, è sempre un bene in assoluto scegliere come investimento un'azione che distribuisce una buona cedola, Graziano? Lei qual è il suo pensiero? Il tuo pensiero, anzi, perché prima ti davo del tu, peraltro, il momento del tu, momento del lei, andiamo col tu e facciamola finita. Ma Salvatore, visto che tra l'altro Mi trovo quasi in uno zoo, potremmo dire che talvolta il dividendo elevato è un po' uno specchietto per le allodole, se devo parlare in termini zoologici, perché è sicuramente importante, ma come dovrebbero aver visto ormai per esperienza i risparmiatori negli ultimi 5-10 anni, scegliere solo un'azione perché dà un dividendo elevato, numeri alla mano, magari ne parleremo dopo la pausa, non sempre è stato un investimento più redditizio di titoli che invece non avevano queste caratteristiche. Purtroppo ciascun investitore, risparmiatore cerca giustamente di trovare delle teorie e delle strategie semplici, purtroppo i mercati però non sono mai così semplici da interpretare e cambiano continuamente i temi di investimento. Sicuramente adesso usciamo da una profonda crisi e recessione e quindi le società stanno tornando a produrre utili ed è un tema di investimento che in questo momento può essere magari interessante, però pensare che da qui al futuro prossimo, salvo che non sia investitori di lunghissimo periodo, nell'arco dei decenni o trentennio o cinquantennio, pensare che solo perché un titolo dà un dividendo maggiore, questa è garanzia di diventare ricchi facilmente, ho qualche dubbio. Allora, tra l'altro, se lo ritieni interessante, Salvatore, magari nella seconda parte della trasmissione potremo analizzare anche questa scomparsa allora della figura del cassettista che conoscevamo negli anni passati, perché probabilmente questa crisi finanziaria così dirompente degli ultimi anni ha cancellato dalla faccia del mondo finanziario anche una figura che era piuttosto interessante. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. C'è già una prenotazione di Marco da Treviso, a cui chiedo solamente qualche minutino di pazienza. Pubblicità Meteo e torniamo subito dopo. Oggi a Salvadanaio parliamo di borsa, ma parliamo soprattutto dello stacco delle cedole che saranno in grado appunto di elargire le società quotate a Milano una quindicina di miliardi in arrivo, a partire peraltro da lunedì, perché le prime due società staccano proprio il 18 aprile. Adesso una è Telecom e l'altra è Fiat SPA, per cui si parte appunto con questo appuntamento abbastanza presto, dopodiché in maggio ci sarà l'appuntamento centrale di quasi tutti i gruppi. E allora, siccome noi volevamo sia individuare i settori più generosi, le società più generose, ma anche, come dire, analizzare quella che qualcuno definisce una sorta di contraddizione del mercato, e cioè quella che adesso faccio dire a Marco da Treviso: molte aziende staccano il dividendo e poi però hanno bisogno di ricapitalizzarsi. Questo è un fenomeno che sta riguardando soprattutto le banche. E allora, insomma, anche quando si fa la scelta di investire in un'azione perché magari stacca un dividendo particolarmente generoso, attenzione, perché magari poi dietro l'angolo c'è una richiesta di denaro da parte della società stessa nel momento in cui si diventa azionisti, e poi magari c'è sempre comunque la volatilità del mercato che può rendere anche un titolo più come dire, passibile ad essere condizionato dai fenomeni economici che si stanno verificando, per cui attenzione, non è sempre detto che sia la scelta vincente. L'importante è che si sappia bene come seguire appunto il mercato azionario e quindi non essere attirati da un'azione solo perché c'è una cedola particolarmente significativa. Allora vi faccio sentire i miei ospiti di stamattina, Salvatore Graziano, direttore di moneyreport.it, e Francesco Caricati, analista della società Consultic, l'osservazione di Marco da Treviso, che io ho un pochino anticipato. Marco, buongiorno intanto, le chiedo appunto di articolarcela un po' meglio. Buongiorno, me l'ha già detta lei la mia domanda, la mia osservazione, praticamente che senso ha distribuire soldi ai soci e dopo poco tempo chiedere un aumento di capitale e rimettere mano nel portafoglio dei soci? Infatti, Marco, lei è un azionista del settore bancario, perché diciamo questo è un fenomeno che in questo momento sta riguardando soprattutto questo ambito. Sì, cioè una società produce utili, distribuisce il dividendo e dopodiché chiede un aumento di capitale, non distribuiamo gli utili. No, quello che le chiedevo, siccome questo è un fenomeno che sta riguardando soprattutto le banche in questo momento, io volevo così avere questa curiosità del suo portafoglio per capire se le interessa, perché è un azionista di titoli bancari magari. Sì, questa è la domanda, sì. Sì, va bene, non ci siamo capiti. Comunque abbiamo Caricati. Come analisti finanziari, analisti indipendenti, comunque vi interrogate su questo, qual è la spiegazione che ci può dare? Ha senso? Certo, magari la distribuzione del dividendo viene stabilita un po' prima, quello che viene distribuito quest'anno, ovviamente la banca, per esempio un'altra società, lo ha stabilito lo scorso anno e magari non c'era ancora un indirizzo chiaro sugli aumenti di capitale, però effettivamente si può fare una retromarcia sulla scelta di distribuire il dividendo in pieno esercizio? una volta stabilito il ratificato, diciamo, dall'assemblea ordinaria, poi viene staccato in base a quanto è stato l'utile dell'anno precedente. Ho capito. Allora, qual è la sua analisi rispetto all'osservazione fatta dall'ascoltatore, che per la verità accomuna anche molti altri ascoltatori? Una società dice: io distribuisco questo dividendo, dopo qualche mese dice però ho bisogno di fare ricorso ad un aumento di capitale e chiede altri soci, altri soldi ai soci. Ha senso queste, hanno senso queste operazioni? Allora, diciamo che i dividendi fino a qualche tempo fa, soprattutto nel caso del settore bancario, fino a qualche tempo fa il dividendo era atteso in netto calo, proprio perché i problemi che c'erano stati nel settore bancario dovevano essere risolti in qualche modo e molte banche avevano optato proprio per la non distribuzione degli utili e quindi per accantonare, diciamo, questi utili a patrimonio e avere quindi una maggiore solidità sul mercato nel momento in cui ci fossero stati dei problemi come quelli del 2008. Ci sono state però anche delle spinte da parte delle autorità a velocizzare questo processo di rafforzamento del patrimonio, che hanno spinto poi ad effettuare questi aumenti di capitale che ci sono stati già l'anno scorso e anche quest'anno ce ne saranno altri, che portano quindi a velocizzare il miglioramento del capitale dell'azienda, cosa che non può avvenire, diciamo, con la ritenzione, diciamo, degli utili, perché il processo di creazione poi degli utili è molto più lento rispetto all'aumento di capitale. In un certo senso sì, è in effetti un controsenso, perché da una parte si danno dei soldi agli azionisti e dall'altra diciamo si chiedono altri soldi, si chiede di finanziare di nuovo il patrimonio dell'azienda. Questo però diciamo può essere visto per l'azionista, che tra l'altro non è sempre detto che vada a compensazione, perché magari il dividendo può anche essere molto meno generoso, è generalmente anche meno generoso dell'aumento di capitale, che per quanto possa essere fatto a sconto rispetto alle quotazioni attuali, no? Esatto, può essere visto come una compensazione, diciamo, per questa richiesta di soldi, di finanziamento da parte della banca, però non è una compensazione sempre al 100%, e quindi può esserci, diciamo, questo è una forma di compensazione ma non ottimale. Allora, Salvatore Graziano, mi vuoi dire la tua anche proprio sul tema della contraddizione più evidente di cui leggiamo sulle pagine finanziarie in questo periodo, che un po' anticipavi anche nella prima parte del programma? Poi ci sono gli ascoltatori che ci chiedono, ci fanno ovviamente nomi e cognomi di società, vogliono sapere quando e quanto staccano, e soprattutto un ascoltatore che è un azionista peraltro di una importante società del FTSE MIB ci chiede: ma allora ci spiegate che cos'è questo dividendo o meno, perché non sapevo neanche che avessi diritto a questa remunerazione. Graziano, partiamo dal tema della contraddizione di fondo che è al centro della nostra puntata. È un atteggiamento apparentemente schizofrenico, come ha detto bene l'analista di Consulti che mi ha preceduto. D'altra parte io credo che un po' ci si marci sul fatto che poi i risparmiatori nel lungo periodo famoso hanno un po' la mente breve, e gli amministratori della società, quando faranno vedere fra qualche anno le slide con i bilanci ed illustreranno la loro società, potranno dire che hanno sempre continuato a distribuire dividendi anche negli anni più difficili e bui, diciamo, omettendo di raccontare che mentre con una mano davano soldi, dall'altra con una mano ancora più grande ne chiedevano. Questo fa parte un po' del gioco finanziario, anche dal punto di vista quasi del marketing che ormai c'è da parte della società per conquistare gli investitori, e sicuramente il settore bancario e finanziario. Anche lo scorso anno, se vi ricordate, Unipol diede un dividendo abbastanza consistente, mentre dall'altra parte chiedeva ai propri soci di aumentare il capitale in maniera forte. Sono cose che anche questo un investitore e risparmiatore un po' smaliziato deve saper capire, giudicare e farsi un'idea. Allora, Rino da Pavia, buongiorno. Ah, ci è caduta la linea. Ricominciamo con i problemi con i telefoni oggi. Insomma, la maledizione addosso a Salvadanaio, ma in ogni caso ho tantissime altre domande al 349-238-6666. Allora, per Davide che ci chiede: Enel e Telecom quando e quanto staccano? Come anticipavo prima, Telecom stacca proprio la sua cedola lunedì prossimo, il 18 aprile, ed è l'ammontare per il titolo ordinario di 0,058 euro, per i titoli risparmio 0,069. Per quello che riguarda invece Enel, lo stacco del dividendo è fissato per il 20 giugno 18 centesimi di euro. Francesco Caricati, peraltro si calcola, e così ci aiuta anche un po' a chiarire la terminologia finanziaria, che Enel sia fra le società più generose, il dividendo ha un rendimento intorno al 7%, leggo dalle pagine finanziarie dei giornali. Che cosa vuol dire questo? Come si fa a calcolare questa percentuale? Viene rapportato al prezzo dell'azione nel momento in cui viene calcolato sostanzialmente, quindi se ho un dividendo per azione di 10 centesimi e un prezzo dell'azione di 10 euro avrò un rendimento dato dal rapporto tra questi due valori. Chiarissimo. Cos'è il dividendo? Ce lo definisce? Allora, il dividendo in pratica è quella parte di utili che viene distribuito agli azionisti. Solitamente è soltanto una parte, non l'intero utile, perché per alcune anche questioni legali o anche per finanziamento, per eventuali investimenti, non tutto l'utile viene distribuito, e quindi quella parte poi che avanza, diciamo, dalla gestione che viene accantonata per la gestione nell'anno successivo, viene poi distribuita agli azionisti. Andiamo a Rino da Pavia, allora, che è l'ascoltatore che avevamo prima, che ci è caduto e che adesso abbiamo recuperato. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi volevo riferire un po' al discorso che diceva prima per quanto riguarda che è finita un po' la figura del cassettista. Ah sì, infatti, che non ho recuperato come tema. Perché ho notato che io ero un cassettista, lo sono ancora, però ci sono determinate, diciamo, aziende dove il prezzo dell'azione non ha delle oscillazioni delle oscillazioni. Allora, dopo tanti anni che si hanno in carico queste azioni, uno poi si stanca e dice ma lasciamo perdere. Purtroppo questo è, come dire, è la regola del mercato azionario, Rino, non ci dà nessuna certezza, come abbiamo drammaticamente visto negli ultimi anni, ma insomma sulla nuova figura del cassettista, se esista o meno, ritorniamo nell'ultima parte di Salvadanaio dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Salvatore Graziano, allora, è scomparsa definitivamente quella figura del cassettista che conoscevamo qualche anno fa? Sì, direi che abbiamo diversi segnali che ne certificano l'estinzione. In realtà non è solo il risparmiatore che è il cassettista che è un po' scomparso, ma in realtà se andiamo a vedere anche l'andamento dei fondi, come sono gestiti, quante volte viene girato il portafoglio, anche gli investitori istituzionali non sono più quelli di una volta, per se si nota quanto è il turnover di un portafoglio e quante volte viene girato nell'arco di un anno. Quindi in realtà non riguarda solo il risparmiatore. Se mentre negli anni, decenni passati esisteva questa figura del cassettista, quasi un bradipo che stava fermo indipendentemente da quello che accadeva sul mercato, oggi siamo tutti quasi delle gazzelle pronti a scappare spaventati sui mercati se qualcosa va male. E proprio riferito a questo, quello che dicevo nella prima parte della trasmissione, se andiamo a vedere un semplice ETF che magari non tutti conoscono, che è quotato sull'Euronext, che proprio seleziona le migliori azioni dell'indice Eurostoxx col dividendo più elevato, e andiamo a vedere l'andamento nell'arco degli ultimi 5 anni, teoricamente uno 5 anni fa avrebbe potuto fare la scelta, come molti risparmiatori hanno fatto nel passato anche recente, di puntare su aziende che davano grandi cedole. Pensiamo nel passato, 5 anni fa, se ci portiamo indietro, ai bancari, a Telecom, a Enel e tutto, per parlare dell'Italia, ma questo discorso si può allargare all'Europa. Ebbene, in 5 anni l'indice Eurostoxx ha perso, l'indice generale ha perso circa il 22%, con una volatilità quasi del 60%, se ricordiamo il periodo 2008-2009, sì. Se uno fosse entrato nel momento peggiore avrebbe visto il suo patrimonio precipitare di tali cifre. Ebbene, se avesse invece puntato sull'ETF con i dividendi più elevati, non avrebbe perso meno del 22%, ma addirittura avrebbe perso il 33%. E quindi questo ci dice che in un periodo di tempo, tutto sommato non brevissimo, 5 anni, aver puntato sulle azioni con dividendo più elevato non avrebbe dato risultati così superiori come il buon senso ci suggeriscono. E vi è anche un ulteriore dato ancora più drammatico, che la volatilità, quella che gli analisti chiamano il drawdown, cioè quanto si perde nel momento peggiore, se nel confronto del mercato è stato del meno 60%, se uno avesse puntato sulle azioni con dividendo elevato sarebbe stato addirittura del 72%. E anche questo ci dice che forse ci conferma che spesso quanto più investitori, non solo piccoli risparmiatori, non diamo sempre addosso la croce a loro, ma anche gli investitori istituzionali, seguono una teoria o la replicano, tanto più quella teoria nei momenti in cui il mercato va dalla parte sbagliata. Oggi forse perché ho portato i miei bambini allo zoo mi vengono sempre i paragoni animaleschi, il famoso cigno nero di Taleb. Anche qui proprio perché tutti gli investitori hanno quei titoli, sono quelli di cui si disfano più facilmente, quindi provocando cadute e discese così volatili e così ampie. Certo, è vero che nel lungo periodo il dividendo è una quota importante, ma quando si parla di lungo periodo si parla di periodi 20-30 anni, o se andiamo a Jeremy Siegel con i suoi studi anche di un secolo, due secoli, dove sicuramente il dividendo è una componente fondamentale dell'investitore. Un investitore che decidesse di rinunciare al dividendo vorrebbe dire rinunciare al 55% del ritorno su un'azione. Però evidentemente queste brevi statistiche, solo che ho voluto illustrare, ci dicono che puntare solo sulle azioni che danno il dividendo elevato su periodi di tempo, tutto sommato, che sono già superiori a quelli ormai di quanto è detenuto un portafoglio medio, non è solo quello il criterio giusto. Occorre purtroppo, come dicevo, essere molto più attivi e flessibili, pronti a cambiare cavallo. Allora, tra l'altro, proprio a proposito dell'atteggiamento nei confronti del tempo, ci illustrava appunto Salvatore Graziano quanto un portafoglio che si riesce a detenere anche per un periodo di tempo lunghissimo non dia sempre delle soddisfazioni enormi se si guarda all'investimento dal punto di vista dell'erogazione della cedola da parte delle società sulle quali si punta. C'è addirittura chi invece, proprio dal punto di vista temporale, vorrebbe avere un atteggiamento completamente opposto, spregiudicato e aggressivo. Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare questa domanda. Se devo decidere di entrare in borsa su una delle azioni del FTSE MIB, di quelle che appunto danno i dividendi, mi conviene entrare prima dello stacco del dividendo oppure aspettare lo stacco del dividendo e quindi contrattare con il prezzo che in qualche modo ha avuto la riduzione per effetto dello stacco del dividendo? Stefano, bella domanda. Qua bisogna che ci spieghi un analista la dinamica dell'andamento del titolo in relazione al momento in cui l'investimento si fa. Allora, facciamo un esempio pratico, caricati, visto che proprio lunedì prossimo o Fiat o Telecom staccano il loro dividendo, partendo magari dal caso più semplice per le cifre: 0,09 euro per i titoli ordinari per Fiat SPA. Allora, ammettendo, intanto, se io volessi beneficiare del titolo distribuito, del dividendo distribuito lunedì, faccio in tempo fino ad oggi ad acquistare Fiat? Certo, sì, oggi è, diciamo, l'ultimo giorno, poi da lunedì la quotazione andrà, come si suol dire, ex dividendo, quindi verrà stornato, diciamo, dal prezzo il valore del dividendo. Ecco. Sostanzialmente non cambia nulla per l'investitore, perché l'acquisto ad oggi ad un prezzo di 6,40 per Fiat, 6,45, equivarrà all'acquisto lunedì del titolo, al netto ovviamente del dividendo. Ecco, tra l'altro c'è un'altra osservazione che ci fanno alcuni ascoltatori. Ricordatevi di dire che alcune società ovviamente staccano il dividendo, ma ne anticipano anche una parte in un altro momento dell'anno, giusto, caricati? Anche rateizzato in un certo senso, oppure può essere pagato un acconto sul dividendo. Adesso io tra l'altro faccio questa brutta figura perché non mi ricordo poi com'era finita la domanda dell'ascoltatore che chiedeva così di dargli un'indicazione su qual è il momento più opportuno per acquistare un titolo, se a ridosso dello stacco del dividendo o subito dopo, caricati. Come si fa a fare una valutazione di questo tipo? Dipende anche dalle proprie esigenze di investimento, immagino. Sì, anche questo ovviamente, ma sostanzialmente la differenza è nulla, mi avviso. Perfetto. Orlando da Ravenna, buongiorno. Ah, buongiorno, io in parte mi ha già risposto il vostro esperto. Perché? Però il fatto che io investa in azioni con dividendi, soprattutto utili, dà anche una certa garanzia con solidità del titolo. Quindi il fatto che io compro Enel, Eni e così via, voglio dire, una garanzia me la dà il dividendo, e poi sono abbastanza, secondo me, garantito di un titolo abbastanza importante nel mio portafoglio. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo chiedere era: a noi ci hanno sempre detto poi che a fine anno bisogna inseguire i seguci, bisogna seguire i cani che danno più dividendi, e alla fine dice che questo nell'arco di lungo investimento danno dei buoni risultati. Vuol dire che tutto questo adesso con le nuove analisi si è all'effetto opposto, tutto qua. Orlando, allora, lei tra l'altro ha citato due società precise che abbiamo già definito sicuramente le più generose. Eni ed Enel mettono in campo quest'anno oltre 6 miliardi da distribuire, praticamente quasi la metà di tutti i dividendi che erogherà Piazza Affari quest'anno. Ancora vado dal nostro analista Francesco Caricati: il peso dello Stato imprenditore è tutt'altro che irrilevante in questi due casi. fondamentale ed è anche per questo diciamo che questi titoli hanno una solidità di base che dà una certa certezza anche all'investitore. L'intervento dello Stato, l'investimento dello Stato che alla fine nel mercato italiano è uno dei più grandi azionisti è importante e rilevante in queste situazioni. E comunque insomma questa è una circostanza della quale possono forse approfittare anche milioni di piccoli risparmiatori. Ricordiamo a quanto ammonta il dividendo di queste due aziende: un euro per azione ai soci di Eni, di cui la metà già distribuiti come acconto. Enel ha promesso invece 28 centesimi, di cui 10 centesimi già distribuiti appunto come acconto, e quindi arrivano il 20 giugno i restanti 18 centesimi. Salvatore Graziano, traiamo una conclusione da tutta questa trasmissione, perché un po' abbiamo demonizzato il dividendo. Sei convinto completamente in negativo appunto della validità dell'investimento in borsa andando alla ricerca della cedola? A me piace fare un po' di polemica, però il mio obiettivo credo sia solo quello di far capire che non esistono criteri così semplici e univoci. È bene, comunque ha fatto bene l'ultimo ascoltatore a sostenere un tema molto importante che abbiamo di poco sfiorato, che è proprio quello della sostenibilità del dividendo. È evidente che nella scelta dei titoli bisogna anche andare a cercare di capire quali società il dividendo elevato, che sicuramente è una società che eroga flussi elevati e costanti, è sicuramente una delle società da tenere in portafoglio, però appunto riguarda la sostenibilità, quindi andare a individuare società che nel tempo possono avere permettersi dei di garantirsi un flusso cedolare costante. Grazie a Salvatore Graziano, Francesco Caricati per essere stati con noi, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippa Oreggi, se non si lamenta che non lo saluto mai, in assistenza tecnica. Salvadanaio torna stavolta veramente lunedì. Buon fine settimana a tutti.